segnale sarà ancora più alto, sia in ricezione che in trasmissione. C'è un abisso, veramente un abisso. Un abisso. Eugenio con la Mantova è 7, con la Gipolla e Santiago 9. Tu da 8 abbondante vai a 9 pieno, cioè c'è un abisso. Va bene, comunque per non sapere leggere e scrivere, a me me ne è arrivata un'altra, quindi se serve a qualcuno la pagate 20 euro in meno rispetto a quando ve la spedisce lui, perché praticamente lo sconto che fa a me di 20 euro, io la do 20 euro in meno, non ci devo guadagnare niente perché io non vivo dalle antenne, vivo l'altro. Se serve a qualcuno fatemela sapere. Quindi quanto viene? 200? No, viene 160 euro, perché costa 180 euro più 20 di spedizione, ok? Quindi siccome io spedizione non ne pago, e lo sconto che ho a un amico gliela do quanto l'ha data a me, io l'ho pagata 160 e 160 la do. Ha pagato. Vabbè, se interessa a qualcuno, hai fatto bene che l'hai ordinato, poi ce l'hai sempre di riserva. Questo sabato prima avrei preso quella invece della Game Master. Questa non c'è tutta, non ha niente a che fare con la Game Master, te l'ho già spiegato. Documentatevi, vedete un po' le differenze tra la Game Master e questa, c'è un abisso, ma non so, mi deve far sapere Francesco Uranio se l'ha trovata, se perché stava trattando con Fusaro, però gli ho detto stai attento perché se Fusaro le ordina dal venditore, a venderla a te ci deve guadagnare, quindi minimo almeno con l'antenna ti costa 220 euro, sicuro. Mi ha detto che si informava, ma non gliene fregava niente quanto la pregava, vabbè, io ce l'ho a casa, se serve qualcuno fatemelo sapere. A dopo ciao, che c'è una confusione qua, ragazzi, non arrivi da poco niente, ma se cazzo tu? Ah, devo tutta questa niente oggi. Là, ma palo a palo si attacca oppure come la Mantova si entra dentro il palo? Come la tua Gianni si attacca uguale, solo che c'è la piazza molto più grossa e le staffe sono molto partono davvero sino mi pare a 2,5 pollici o a 3 pollici, tutta una cena inossidabile, è favolosa. Si sente che va bene. Vabbè, dai. Se fosse stato tu prima me l'avrei presa io, ma ce l'ho già adesso, cos'ha per il posto di una santenna, lui? È più lunga della Game Master, 1,5 metri più lunga. 2 metri più lunga, però vabbè, fregatevene, adesso avete 2 buone antenne lo stesso, se dovesse capitare che mi tocco le balle, le antenne non vanno più bene, fatemelo sapere, e vi montate questa e poi mi date il risultato, mi dite Claudio vi reggio, c'è un abisso Gianni, guarda io sono amante della Mantova che per me non ce n'era per nessuno, quando ho provato questa antenna mi sono spaventato, QRM 0, propagazione bella, pulita e ordinata, e la resa che c'è questa antenna è una favola, è 7/8, non c'è niente da fare, è quasi un'onda intera, capito? È uno spettacolo. Ciao ragazzi, che c'è troppa confusione, sento nel salone, e il fiago di Babassini, ci sentiamo, ciao. Grazie, che buoni. Ciao. Vabbè dai, saluto anche tutti quanti, che vado anche io, mi sposto, dai, che se no quella rimane sola. Andate, ci sentiamo ragazzi, vi ascolto, dai. Ciao già, ciao. Anch'io mi sto spostando ragazzi, ci sentiamo dopo. Roberto, ancora ci sei? No, Roberto si sono spostati e stanno facendo altra cosa. Niente, va bene, dai, ci sentiamo allora. A dopo, più tardi, dai. Ah, ci sei rimasto anche tu? No, credo non ci fosse rimasto più nessuno. No, sono qua, sto facendo una cosa al computer, ma ogni tanto butto la mano qua. Ho capito. Quindi sei rimasto io, tu e Gianfranco, così? Oh, Gianfranco è andato con Roberto. Chi è questo? Mario, buonasera. È Mario la produttore, finalmente. Allora, qua 6-7 è perfetto, la modulazione è chiara, limpida. perfetto, non posso dire niente. Vai Fra, vai Fra. Come ti arriva a 7 a te? Beh, mi arriva a 8 e radio 5. E la modulazione è buona, buonissima. E non ti arriva più bassa a te che sia Porto Torres che a me. Beh, arriva a 7 a me. Arriva a 7 spaccato. E la zona è. La zona. Magari a te, la magari è zona è più libera verso il sorso che verso di me. Eh sì. Avanti Mario, buonasera. Vai, vai che siamo qua, vai, non ti preoccupare. Tanto Franco dal computer, io sono qua. Dai che vediamo questa differenza. Attacca l'altro, va. La modulazione è buonissima come modulazione. Caspita, bella, bella chiara. Sì, sì, è abbastanza accettabile, è grande. Allora, vendo, sto vendendo il Kenwood 140. Ho allineato il Kenwood MC60, questo che state ascoltando adesso, 100 euro. Beh, io l'avrei detto. C'ho qua. Beh, sei salito a 9, sei salito a 9 a picchi positivi, 9,5. Meraviglia, beh, questo è un altro pianeta, non è omologato, insomma, poi c'è una vecchina di base. Ora, vabbè. Ok, stavi dicendo, sei pronto a vendere? Sto vendendo il Kenwood, questo qua, 140 che sto usando adesso, mi ha accoppiato all'MC60 che sto usando adesso, questo qua, 100 euro. No, non ci credo. Sì. A me mi ha fatto solo ridere. Io sto vendendo una casa da morto, trovata vicino a un cassonetto, 50 euro. Troppo, è a seconda mano. No, sto scherzando, mica è entrato a Pompugno. No, Alessio Pompugno, la Sassa, lo senti. E poi a te ti avrà, già lo sai cosa, Mario. Dopo vieni avanti. Ehi, salutone a tutti, ben ascoltati. Adone! Attento, passa lontano, prima che inciampi dentro e poi rimani lì. Già fregata se l'hanno, carta. Quella è la vedata in cambio di un Kenwood, la vedata, guarda, perché costa di più la casa che il Kenwood. Popo, Mario non lo senti, vieni avanti Mario. Buonasera, Popogno, se non erro, quindi mi sei corretto, come ho detto io. Mario Portotorre, mi ascolti? Sì, ti ascolto, Santiago 9 Radio 5, comunque, ti arrivi bene. Fra, comunque c'era a me l'altro giorno, un 140, 150 euro, l'ho chiamato, gli ho telefonato, ma e mi ha detto, dice, l'ho già promesso, ma dite, allora ho detto, sei già promesso, cosa gli hai messo a fare, gli ho detto in vendita. A me vale tutta una gaggata che se l'hai scritto, comunque gli ho detto ti ritrovo conto se ce l'hai, cosa vuol dire che hai? Mi batte, te ne volevo dare 300 in contanti io, perché per te che l'hai voluto dare a qualcun altro. Capo, vuol dire che non avevo voglia di darlo. Avanti Mario. Ok, no, ma vabbè, io rimango qui in ascolto, mi faccio da mangiare, tanto dipende già orario più o meno. Oh, comincio a preparare, un po' meno, comincio. Va bene, via tu, via tutti bene, prima o poi arriva bene, se ne avete 7 e mezzo, ci sono due RM, dai, se riesco a ascoltarlo, purtroppo quel RM di casa, va bene. Avanti l'amico di Giorgio, Franco mi pare, avanti tu. Sì, Franco. Sì, no, vabbè, più o meno siamo vicini, non è che siamo molto lontani, linea d'aria. Io ho portato che lo vedo fuori al terrazzo, lo vedo tutto. Comunque il mio nome è attivo al CB è B2. Chihuahua Mario mi chiama Chihuahua di Sassari, perché io ero il Pitbull, lui era Chihuahua. Ai, Chihuahua! Fra, cosa mi racconti? Vabbè, Pompo, sta a posto. Pomponio sta provando la cassa da morto. La misura, capire. Io una cosa, ma l'hai conosco, più l'hai visto? Non l'ho più visto né più sentito. L'ho chiamato a Cari, l'ho basculato e non mi ha risposto. Oh, non mi ha più manco telefonato. Io una volta l'ho chiamato e non mi ha risposto. Poi un po' mi ha chiamato ed era sempre in pressa, sempre correndo, vende. Ma chissà cosa va in capo Luca. Luca quando sparisce così ovviamente sta facendo cosa, o in garage o da qualche parte, boh. Ma perché sta facendo i turni al lavoro strani? Sì, quello già l'ha sempre fatto, quei turni strani. Anda un'ora, due ore, poi dorra. Ma com'è che c'è una via giusto? Ma com'è che c'è il posto dorra? Se no guai. Ma tu? Perché sei attorno nella macchina, no? Poi magari quando sei lì, fermo, senza far nulla, ti fa una chiacchierata. Ma su 10 non entra. Lo so, che non entra. Vabbè. Io quasi quasi domani lo chiamo a vedere. L'altro giorno sono passato lì, ho visto la macchina a casa sua e ero con un'altra gente, non ci sono entrato. Se non è cercato solo mi è entrato. C'è stato in garage? Sì, sicuramente in garage, perché fa tanti lavori, fa. E già ho visto già i lavori che fa. E anche bravo. Antonio Luca, magari ne ascolto, mi se prendi quattro risate va. Anche. Vabbè. Da 27 non lo so se ce l'ha al lavoro. Però l'altro già ce l'ha, sicuramente. Piatto l'antenna, c'ha tutto in macchina. Piatto l'antenna e via. Ha vita la Turbo 2001 e due è già pronta all'uso. Ma c'è dentro la Lini, non entra con la macchina lui lì. Dentro usa la macchina di servizio. Ah, è vero. Vabbè, comunque se lo sento, lo vedo, glielo dico. Perché non lo preferisco di entrare. di solito quando modulava con me andava al 12, modulavamo insieme. Però non è molto che non lo sento più. Già lo so, anch'io, era un po' che non lo sento. L'ho chiamato e non mi ha risposto. E Luca è uscito, si è pensato di uscire. Sì, già lo conosco bene, capita. Avevo fatto turni pari, vivi. Conosco 48 anni, lo conosco. Figurati. Capita. Vabbè, voi siete di Porto Torres. No, io conosco... Più o meno una quarantina lo stesso, Noi abitavamo vicino di casa, quindi veniva a giocare a casa, insomma, eravamo vicini di casa, da bambini, proprio bambini. Ma la mattina in Italia già da ciappo di un dico. già è bravo, va. Sì? Aspetta un attimo. Mario! Sono in ascolto, dica. Cosa c'hai di buono oggi? Ah, niente di particolare, guarda. Mi sto facendo due bistecchine di pollo. Veloci. Bistecchine di pollo? No. Ecco qua, Mario c'ha la gotta, allora provo a lui a mangiare stanotte. Oggi, mi devo aspettare un attimino. Rientro dopo. E fai. Già siamo qua, per il momento. Oh yeah, it's not the camera, yeah, it's just... io, io non sono un grosso mangiatore di pesce, eppure sono di Porto Torres. Ma no, ho pensato io. Sta stampando la stampa. Ho detto, no, Mario c'ha il porcetto arrosto, sono andato da lui, invece no. Ecco, no. Guarda, io vivo da solo, non ho moglie, figli, qui c'ho un figlio, ma sta a Bologna, perciò figurati, no, ma per me, quando io mangio faccio due spaghetti di veloce o qualche macaroncino così, ma roba veloce, non mi togli a mettere a fare cose complicate, capisci? Poi vivendo da solo, figurati, anzi quante volte chiamo anche la pizza. Io in cucina sono troppo bravo, lo so troppo, troppo. È una passione. Io perché ad esempio ho fatto l'alberghiero, si è diplomato all'alberghiero, lui si mette lì in cucina tranquillamente, fa tutte le sue cose, non parliamo di quando si fa i cocktail, che è lì un maestro praticamente, però è, non lo so, è, per me cucinare è una propria vita, io vivrei in ristoranti tutta la vita se così. Ma la mia specialità è il panino alla Nutella, troppo forte, non c'è nessuno che possa battere. Che lo sto dicendo? Oh, io dico cucina proprio, non capisco niente. Oh, zero. Non sono per me fornire. Ma il panino alla Nutella non mi batte nessuno. Tutto, non manca niente, certe focaccioni che mi faccio con la Nutella, mamma, e te il coglio. Buono, buono, perché con la Nutella è micidiale, sì. Ma io ultimamente mangiavo panini con la mortadella, sarà perché la facevo la mortadella, però insomma, quando ci vado la frutta bella calda, non c'è motivo di avere. Troppo buona la mortadella fatta calda, quando esce dalla zuppa che è cotta, si tagli perfetto anche in mezzo al pane, non ce ne serve nessuno. Sì, ma se ne tagli un pezzetto rovini il pezzo intero, no? E beh certo, assolutamente, infatti quando uscivano dalla zuppa, siccome sono un budello non naturale, sono un budello con un picco di mortadella, parlo di temperatura da 13 miglia, quelle che proprio vanno sulla stessa felice eccetera, e quelle molte volte si rompevano perché il budello quando si scalda si gonfia, hai capito, molte volte si strappavano, quindi le mortadelle strappate non sono più vendibili, chiaramente si possono tagliare di nuovo, si possono rimacinare, quindi le facevano, tagliavamo e poi via, capito? Ok, ho capito, ma io non ci vado pazzo per la mortadella. A me piace più la mattina verso le 9, 9 e mezzo, sai, panino bello croccante, salame fontina, Sì, no, ma guarda, anch'io salame buono, se c'è, assolutamente, però vedi la mortadella calda, appena uscita dalla stufa, che c'ha quegli 80 gradi, poi la metti in mezzo al sale, che è un pochettino, da mangiare è una favola, tanto lo posso garantire. Comunque se vuoi fare l'esperimento puoi farlo anche in casa, e prendi mortadella, la tagli praticamente spessa di un centimetro, che puoi fare una fetta spessa di un centimetro, e poi dopo la metti sulla graticola. Beh, la metti sulla graticola quando fai qualcosa, non so, da mangiare, così che arrostisci un po' di carne, e poi vai tranquillo, la lasci colare un pochettino, un po' di grasso, e poi la metti per il pane, come sai dire, altro che il wurstel. Un'altra cosa che non mi ci scende, il wurstel, non mi piace. Ma il wurstel è fatto con la carne di scarto, Ti ripresenti che noi, quando ci arrivava la carne, in genere arriva sempre congelata, perché va macinata congelata, altrimenti si inzuppano le macine, e dopo ci blocca tutto, quindi la carne va congelata. Molte volte arrivava la carne, che arriva tre ore scaldate, magari il frigo non andava, ma i camion, anche i piccoli la trasportavano dalla Germania, da Belgio, eccetera. Ecco, la carne lì, quando buttava un pochettino, la si mettava indietro, e cosa fai? Non è che la buttano via, la usano per fare vista, capito? Mamma mia, che schifo, non ne mangio. Allora, un giorno, in Grimaldi, sta stavo portando un semirucchio su nella rampa centrale, che è abbastanza ripida, e avevamo chiuso male sicuramente le celle del rimorchio frigo, si sono aperti, si è spalancato dietro il rimorchio, ho perso tutta la carne macinata, c'era un semirocchio di carne tritata di un odore, uno schifo, avevo dovuto prendere la pala grande che abbiamo, il Caterpillar, il 590, quello mastodontico, per rimettere tutto dentro il camion, uno schifo. E poi quella lì la usano per fare tutta, è buonissima quella, quanto è bella, hai capito, non impestata di batteri così. Tanto ascoltami, quella carne lì una volta che cuoce viene pastorizzata, quindi non è più, hai capito, carne con batteri, i batteri muoiono a 70 gradi, 75 gradi, già c'è un abbattimento che fa paura, hai capito, quindi non c'è problema. Buona, buona. Mamma mia, mi ricordo, mamma mia, prendevo il Bobcat anche, la paletta piccolina, buttare dentro il rimorchio. No, no, ma lo so, guarda che ci ho messo, ho lavorato 21 anni, conosco perfettamente gli odori della carne che sta andando in... Addirittura noi avevamo le celle controfacciali, cioè quelle sono praticamente come gli scarti, no? E lì, se per caso tu, non so, il giorno prima ti cadeva un pezzettino, parliamo d'estate, che fa caldo, sui 30 gradi così, all'esterno, no? Ti cade qualche pezzettino di carne, allora poi vedevi le mosche volare, capito? Le mosche ci fanno così, cioè tu la sospetto di carne, dopo diventa mosca, tranquillo, tranquillo, proprio pieno di mosche. Che bello, e poi abbiamo portato tutto dentro, hanno chiuso bene le celle frigo, nella rampa è rimasta tutta umidicia, tutti i pezzetti di carne, ci passavano le macchine sopra per imbarcare, non ti dico lo schifo. E poi c'è la puzza dopo, perché se durante il trasporto tutta la notte la carne rimane attaccata alle gomme, perché basta un pezzettino piccolino, guarda che la carne è una cosa micidiale, tu la lasci un attimino così in giro e ne fa un fiato di mamma mia, orrendo, Quello che te lo sto dicendo era un qualcosa di impressionante. No, no, ci credo. E comunque sì, dai, comunque no, per quello che riguarda la mozzarella, i salami, adesso poi dipende dalle aziende, perché io ad esempio lavoravo in un'azienda super certificata, quindi ci avevamo la visita dei nazi ogni, come si può dire, almeno una volta al mese, guarda, i veterinari tutte le mattine passavano a fare i controlli, macchine fornite di metal detector, perché durante la macinatura della carne può scappare che si rompa un dentino, capito? Quindi la carne viene immediatamente scartata, poi buttata via, no? Beh, no, è abbastanza severe. Poi ovviamente c'è anche quella dell'azienda, quindi insomma, non tutte le aziende sono al top. Comunque in effetti la mozzarella, il salame, insomma si mangia tranquillamente bene, non ci sono grosse schifezze dentro. Lo stai usando il palmare? Sto usando il normale. No, il palmarino, non lo so, secondo me c'ha poca potenza proprio, non dà tutti i vati dichiarati dalla casa, lui dice che non c'è 4 vati, che secondo me è molto meno. Secondo me 2 vati e mezzo se ce li ha è proprio a... Però va bene, funziona bene. Eventualmente poi quando finirà la garanzia lo farò usare un pochettino di potenza. Sì. No, stavo dicendo il microfono palmare, il microfono che sta usando è palmare. Sì, sto usando il microfono della palanca, quello normale. C'ho anche un eco volendo, questo aspetto qua, cioè qualche momento. Però è un eco che più che eco è un reverbero, perché sarebbe regolato dall'interno. Solo che non è mai dietro della palanca, capito? È nuovo, che è anche tanti scorsi. Insieme a quello, se riesci a prendere quell'altro e prenderti quello che ti dico io, quello mio, io ti do, ci mettiamo d'accordo e ti do anche il microfono da banco, MV+4, comprato, niente, messo qua, va ancora allineato all'apparato, non l'ho mai usato praticamente. Ci credo, lo proveremo, però ripeto, in piazza San Pietro, però va bene. Magari dai. Un centimetro a cervello la messa se mi pappa. E anche io lo vogliamo subito, non ci vuole avere niente a che fare, io sempre dietro, recuperisco. No, ma non c'è più, non c'è più. Però va bene, sì, è un reverbero, non è come un reverbero. Qua ho un microfono anche amplificato da palmo. Quello me lo voglio mettere nel camper. È quello con cosa si chiama? Quello con Galaxy, il suo oppure se è da tavolo? No, te l'ho detto, da tavolo. Non mi più 4. Ah, ho capito. Ma dimmi una cosa, quel Galaxy è stato disegnato, è stato aperto, è stato rivisitato, tutto? Non lo so, questo non te lo so dire. So che era di un radioamatore. E comunque va bene, nel senso che certo, se lo vuoi te lo faccio anche provare a casa, non è un problema. Sì, sì, ma adesso quando deciderò di prenderlo tranquillamente, perché sono interessato, solo che ti ripeto, devo prima vedere quello che è ancora in riparazione di legalizzare, una volta finito quello non ci sono problemi, si può provare. Mi interessa più sentirlo lavorare, capito? Mi interessa, infatti, se qualcuno ha bisogno glielo presterei anche. Non mi interessa sentirlo lavorare, perché è sempre spento, staccato, spento, e va a finire magari si rovina senza usarlo. Ma no, non credo, guarda, io sono un ammalato 30 anni fermo, praticamente, sì, 30 anni fermo, da 1995 per arrivare oggi, cioè oggi insomma 3-4 settimane fa, forse così. Chihuahua! L'ho acceso e perfetto, non, secondo me se lo tieni bene un po' solo della tua umidità non dovrebbe dare problemi nemmeno a livello di condensatore assolutamente. Poi chiaramente se l'apparato è buono, io ce l'avevo questo Intel Galaxy, che garanzia era, però è praticamente un simile somaro da campo, insomma, che è lo stesso, praticamente lo stesso modello, lo stesso portatino, tutto, quindi solo che cambiavano tutto, tutto lì, però l'ha pagato lo stesso, praticamente l'ho venduto tranquillamente, guarda, colui che l'ha comprato, perché poi l'ho spedito al tipo, è felicissimo. Felicissimo, ho detto guarda, va benissimo. Questo è sempre spento, ora funziona, chiama canoata. Ma tu non avevi gente a casa, vai. Ah, ma gli ho mangiato 7-8-10 papassini e uno sfumantino. Ma allora, se tu ti fa vedere, devi far vedere, decidi di venire a metà dei bidi. Andare. No, io è sempre spento qua, è un peccato vederlo così spento, cioè è un peccato. Il mio è sempre spento, ogni tanto lo accendi, guarda, non funziona bene. Sì, ma volevo riuscire ad allineare il coso, l'MV+4, non sono riuscito a fare i contatti. E facciamo quelli, tu sai cosa devi fare per usarlo, come ho fatto io, perché altrimenti non lo userai mai. Ti compro il commutatore d'antenna o EOG, anche a due, e attacchi l'antenna e due radio, il 140 e il Galaxy. Ogni tanto commuti e lo tieni acceso, naturalmente in un altro canale, ok, commuti e ti fai due chiacchiere anche con quello, arriverai un pochino più basso, però va bene lo stesso, guarda il mio, io ce l'ho sempre acceso, la verità, ho acceso, lo tengo anche spento a volte, però la maggior parte è sempre acceso, però è sempre sotto antenna, non devo stare stacca, attacca, commuto, c'ho un commutatore a 4 vie, e uso tutte e 4 le radio, quando ne ho voglia commuto uso una, quando ne ho voglia commuto uso l'altra, perché altrimenti se non c'hai l'antenna attaccata, stare attacca e stacca, lo so che non ti piazzi, se invece hai il commutatore, tu quella radio la usi, tranquillo che la usi, mi ascolti bene Mario? Ma scusami per prima, io ci avevo modulato, ma vabbè, ti ho detto che c'è c'ha pochi watt, questo originale c'ha 8 watt, quando uso gli HF c'hanno sempre una ventina di watt, quindi è chiaro che il segnale è più alto. Però per far capire a Eugenio che si può fare, no? Non ci sono problemi, si può fare. No, no, non c'era, ma io non c'ero con te, perché c'era uno che praticamente tutti i santi giorni si mette con questo eco a fischiare e a fare, quindi già stava disturbando lui, e eravamo un po' in difficoltà a sentire a Carlo. Poi è entrato Eugenio, o perché non ha sentito a Carlo parlando con te, poi sei entrato tu e alla fine non ci ho capito più niente. Ma non è assolutamente successo niente, figurati. Può capitare quando uno c'è, cioè, segnali bassi e non riceve, a volte capita, però qua sa, se siamo abituati, ma stanno parlando, allora subito si bloccano, capito? Invece voi avete fatto un passaggio, avete coperto a Carlo tutto lì, niente di che, capito? Oggi, se tu ti compri un commutatore d'antenna, sono convinto che ogni tanto ti sento col Galaxy, come faccio io. Ma provoca stazionaria il commutatore, no? Chi si dà la ZG, chi si gagardi, ma se spendi 70-80 euro per un buon commutatore d'antenna della Reverx, come quello che ho io professionale, allora è diverso il discorso, non perdi assolutamente nessun segnale. Il commutatore deve essere buono, deve commutare le radio, e quando tu stacchi da una radio all'altra, no, deve staccare, non devi sentire manco il QRM, la devi annullare la radio. Quelli della ZG non chiudono, hanno delle lamelline del cacchio che non serve a niente. Il commutatore vuole buono, io ho quello della Reverx a 4 vie e ti dico che è eccezionale, l'ho pagato 110 euro, però è un commutatore serio, non vi sia un commutatore da 30 euro, da 40 euro che vende la ZG, no. Quindi buttateli nella mondezza. Ah, ok, ok. Posso fare una prova, Claudio, 2 secondi, che mi devi dire come arrivo al portale, guarda la differenza, adesso sono con quello di CRT, adesso cambio l'antenna, poi voglio vedere se sto Galaxy è molto selettivo, non c'ho QRM, poi quindi ti dovrei sentire lo stesso, magari basso di segnale, qua sei 5, un po' più sordo, un po' meno generoso il Galaxy, però sei Santiago 5, prova, vediamo. Il pilota di Hiroshima. Sì, sì, ti sento magnificamente bene, Santiago 3. 3 come terzero. Arriva anche il segnale, ti ho detto, Santiago 3, radio 5, non ci sono problemi. Genio si deve essere allontanato, no, arrivi, non ci sono problemi, capito Eugenio? Prenditi, guarda su internet, commutatori Revex, Oxin, ci sono dei buoni commutatori, a prezzi buoni, te lo prendi a 2 vie, tu c'hai 2 radio, 2 vie, ci colleghi il Galaxy e il 140, vedrai che ogni tanto lo usi. Sono chiamato la moglie, boh. Ascoltami Claudio, 2 secondi se non ti dispiace, con questo qui arrivo con che segnale? Questo sei 7, Santiago 7 radio 5. C'è una differenza, pensamente io non so quanti watt esattamente già lì, però me lo dicono 20 watt, però possibile, vabbè. Vabbè, no, non è nessuna radio omologata, neanche questa è omologata, quindi ognuno si arrangia come può, però ti ascolto benissimo, tieni conto che questo è il baracchino, mentre con la KF ti ascolto molto più performante, il segnale molto più selettivo, capito? Tutto qua. Sì, Saturn Echo base, abbinamento MB più 5. Guarda, io ti ascoltavo benissimo prima, quando ti dicevano che avevi la modulazione, perché avevi ascolto un po' che non andava bene, io invece ti sentivo bene, tranquillamente, perché stavo ascoltando. dentro la scatola col microfono, perché io è 40 anni che faccio radio, ma nessuno mi ha detto che esco male del radio, quindi quando uno mi dice così e poi detto da un professionista come Gianfranco, mi preoccupo. Perciò quel microfono non è adatto a quella radio, ho già ordinato l'MC60, me lo spediscono domani e dovrebbe arrivare lunedì, così in tutte le radio l'MC60 nessuno mi può dire niente. È un abbinamento che ho voluto fare, pazienza, l'ho rimesso da parte, non ci sono problemi. Così uso, siccome io c'ho tutto Kenwood, uso i microfoni Kenwood, è una vita che uso quei microfoni, perciò mi dà alta fedeltà e la gente è abituata a sentirmi con quel tipo di microfono. Perciò quello l'ho preso, l'ho messo dentro la scatola e messo dentro l'armadio. No, non ci sono problemi. Rimediamo subito. Sì, mi sono allontanato un secondo. Vedi, la modulazione che va bene è la mia. Presenti quanto esco bene, limpido, chiaro, recoaro. Perché quello è un MC60 come questo, vedi la differenza che c'è, Mario. Quindi siccome io sono abituato dal 1986, sono uno dei primi assassini che ha portato questo microfono, ne ho ordinato un altro. L'ho comprato oggi, dai, stamattina. Mi sono fatto fare l'ordine da Roberto, lui c'ha il computer, già pagato e tutto, e lunedì dovrebbe essere qua a Sassari. Almeno lo metto sul 430 e la Roni se l'ho messo dentro l'armadio. Cambio. Ma nuovo o seconda mano? Nuovo, non ne voglio Roberto rubiata dalle lastre, io nuovo. Ma li trovi ancora nuovi? Certo che ci trovo, certo, non lo volevo comprare perché, ti ripeto, avevo questo, avevo l'adone, se nuovo nuovo, e quindi mi sono fatto fare anche il connettore nuovo da Gianfranco, tutto perfetto, però se la modulazione non piace io non sto lì a cincischiare. L'ho preso nuovo e ciccia, lo sai, intanto vai a comprare l'usato, dice, a meno che non fai come hai fatto tu, non l'hai preso da me, sai che io uso le cose in una determinata maniera e te l'ho dato in ordine, nuovo e perfetto. Ma se tu lo ordini da internet, ti futtini, capito? Ti fregano e quindi vai a buttarci 100 euro, ne aggiungi 40 e te lo compri nuovo. Sì, giusto. Sei d'accordo? Perché cioè, se io devo dare una cosa a un amico, Eugenio, ti dico sì, tieni, te la do col cuore perché è nuovo, è mio, comprato da me, mai toccato e tu ti fidi. Ma tu vai, fidati di chi c'ha niente. A me una volta mi hanno mandato un microfono, Eugenio, nuovo di pacca, nuovo, sempre MC60, nuovo. Io e ne voleva 70 euro, guarda dove era l'inganno, cazzo, 70 euro lo prendo al volo. Arriva il microfono, l'attacco era vuoto, non c'era circuito dentro. Basta, internet è così, bisogna starci attenti. Ma è Mario. MC60? Sì, lo sto guardando su eBay, che è molto MC60, mi sono trovato modificato con G-Home Down, 184 euro, il microfono si trova in Italia, vabbè, ma poi dipende da dove si prende, ho visto uno che vendeva 300 euro. No, costa 160-150 euro nuovo, io l'ho faccio sempre uno sconto a questo mio amico venditore, 140 euro, e non pago, non pago neanche il trasporto, capito? Sempre quello delle antenne. Stamattina mi sono rotto le balle, sono andato a Roberto e mi sono fatto fare l'ordine via online, perché io non c'ho computer, capito? Quindi è così, è così. E quello che ho comprato, l'Adonis, lo stesso, costa 140 euro, non è un microfono da 4 soldi, è un microfono ottimo, vanno molto bene, solo che evidentemente per questo tipo di radio non va bene. Volevo provare magari sullo Yaesio, ma c'è da cambiare la connessione, vedere un po' se va meglio come timbrica. Questi sono i microfoni eccezionali. Quello lì è uguale a quello che c'è Eugenio, glielo ho dato io, capito? Vai Eugenio. Sì, sì. Anche il mio, se lo vedi Mario, sembra che stia uscendo dalla scatola, nuovo. E così è rimasto, così me l'ha dato e così è rimasto, perché io non è che sono uno che tocca, che fa. Sì, lo tocco per schiacciare la portata e basta. Penso che sia, quindi dovrebbe essere una capsula ceramica particolare, ma spinge in una maniera impressionante, guarda, col K è impressionante, poi ti dà una timbrica di modulazione pazzesca veramente, no, un ottimo microfono. Io ho iniziato con questo microfono che non era neanche Kenwood, ancora era Trio Kenwood. Capito? Questo che sto usando io adesso è proprio uno dei primi modelli che è uscito, uno dei primi modelli, e me lo sono tenuto perché è sempre andato bene. Quindi questo c'ha l'alberino, prima della scritta Kenwood c'ha l'alberino, che vuol dire Trio Kenwood, ancora la Trio era Kenwood, capito? Era Kenwood Trio, era una casa diversa, e poi è diventato Kenwood. Il primo modello era MC60, quello che c'è Eugenio è l'MC60A, anche se non c'è scritto oggi, quello tuo, l'MC60A, l'ultimo modello che hanno fatto, perché quello l'avevo comprato nuovo da Media Globe, poi mi sono venduto le radio che ci avevo in più e mi sono tenuto il microfono, e poi è capitato che serviva a te, l'ho dato a te ben volentieri, capito? Io ancora non mi sono sentito con questo microfono, sai? Adesso grazie acceso, ma non mi sento, se sollevo in esca. Devi mettere le cuffie, amore mio, se non ti muovi le cuffie non ti muovi, intendi? Ah, uscire. Adesso mi ci accompagno in cuffia. Inserisci nel Galaxy le cuffie dove c'è scritto Fone e metti nello stesso canale, capito? E ti ascolti. Non ti avvicinare molto, se non magari senti il fischio delle cuffie. È fenomenale la modulazione che c'è, ma non tanto, non quanto la modulazione, ma quanto il segnale è aumentato tantissimo, sei fortissimo. A me mi si è sempre arrivato la porta torace tra il 5 e il 6, nei primi periodi che si è entrato sei già a 9 più 5. Arrivi veramente molto molto forte e la radio è veramente molto molto bella. Sì, avevo tempo fa fondo per un baracchinetto, cioè sono andato a migliorare, capito? Io voglio dire. Ma io te l'ho sempre detto, quante volte ne abbiamo parlato, oggi non comprare baracchini, tutti ciò che li stai spendendo, comprati un bel K, è capitata l'occasione e te l'ho fatto prendere. Capito, però adesso puoi dire che c'hai una bella radio, consistente, ufficialmente professionale, vai di lusso, non hai bisogno di lineare, non hai bisogno di niente, hai potenza, hai ricezione, trasmissione, tutto che subito ti servi. Io non ho mai, io non riesco a modulare col baracchini, potrei modulare col Galaxy, una bellissima radio, non ci riesco, se a me ne mancano queste radio sono morto, Mario. Anche se è enorme quanto la scrivania, è sempre un baracchino, quindi non ci sono dubbi per me, io chiamo radio queste sono radio, perché sono HF, perché si chiamano radio, mi hanno insegnato così, gli altri sono baracchini, qualsiasi cosa è baracchino, perché la radio è sintonia continua, gli HF sono sintonia continua, per me è così, tutto qua. E cosa stavo dicendo, Eugenio, non... Ah, ti sei ascoltato in cuffia oggi? No, perché non ho lo spinotto grande. Ho le cuffie con il senza filo, ma non ho lo spinotto grande. E vabbè, domani me lo compro. Sto dicendo, adesso mi sono ricordato, l'unica cosa che hanno queste radio, sai cosa, eh? Che secondo me hanno sbagliato, perché sono radio belle, di un certo livello, di un certo costo. Potevamo farlo direttamente a 220 invece di usare l'annettatore. Oggi a 220 c'è il 940, 930, 920, l'820 e poi hanno iniziato a farli a 12 volt, capito? Io li ho avuti tutti, io sono crevodiano da quando sono entrato in radio. In radio veramente, perché dal 73-74 al 1980 usavo i baracchini, poi dall'80 in poi, 81-82, ho iniziato con queste radio e non ho mai smesso, per me era numero uno in 27 i tre modelli, quattro modelli diciamo, 140 e 680 che sono i gemelli, e il 430 col 440, io ce li ho tutte e quattro. E non mi stacco mai, non mi stacco perché non mi interessa. Poi c'è il 757 GX2 della Iaesu, che è simile al 140, un pochino superiore, più bello esteticamente, però non lavora in AM come lavora il 140, quindi per me può rimanere anche spento lì da una parte come museo. Tutto qua, vai Mario. Ok, ma il 140 cosa fa? C030, mentre il C80, il DSC80, che è gemello specifico, proprio tu li metti a fianco non lo riconosci se non leggi la sigla, sono uguali, precisi, identici all'interno alla scheda dei 6 metri, quindi anziché fare 030 fa 050 mega. Lo vedi oggi? Con la fortuna io magari vado in viaggio, siamo a posto, è per quello che tengo un omologato, che mi state vicino alla legge, su 250 euro per un omologato, perché poi ha mettiato con le bande laterali, quindi l'ho preso anche con le bande portatili, perciò, e anche quello lì, insomma, un sistematoriale, insomma, che faccio frequente, fino a qua, qua fino a 30 praticamente. Però non ci può durare, non ci può fare niente, è così. E niente, stavo appunto guardando una cosa che però a me piace molto, che ho visto che insomma è anche un prezzo abbastanza accessibile, è l'ultimo che ho fatto da ieri, il 991A, che è un quadribanda, lì veramente c'è tutto, e dicono che funzioni molto bene per, diciamo così, l'apparato che è, nel senso che essendo un quadribanda, insomma tu sai, no, che più cose hanno, più funzionano. Quindi, però mi hanno detto e chi l'ha provato ha detto che funziona molto molto bene. Prezzo 1,3-1,350 dipende. Comunque vabbè, io ci ho lasciato gli occhi e magari un giorno chissà, forse non lo posso permettere, adesso vedo. Però mi piacerebbe, comunque lo lì hai tutto. Però ripeto, se c'è il problema della patente, io vorrei anche studiare solo che voce, un casino, dico si sa come si fa l'esame, ma se si fa online, se non si fa online. Dove ci fate, se si a casa, fuori, dove è un casino, quindi non riesco a capirlo, adesso appena mi inserisco meglio ci penserò un attimino e poi vedremo. Va buono, Eugenio, riprendi, io comunque signori adesso vi saluto perché è veramente vado a mangiare, è arrivata la mia ora, perché altrimenti qui faccio tardi, sono iniziato molto presto la mattina, vado a camminare perché insomma devo farlo obbligatoriamente, perciò e così insomma. Va buono Eugenio, riprendi, grazie delle quattro chiacchiere, comunque state bene e ci sentiamo nei prossimi, vai Eugenio. Ti piace Mario, ciao, ci sentiamo tutto al prossimo, buona camminata per domani e niente, attenzione ai tuffi e alla pista ciclabile, ciao, riprendi qua. Ehi, ciao Mario, ma perché casino? Guarda, gli esami sono stati fatti martedì, tra l'altro il nostro membro del canale 10, Roberto Quadrato, ha dato gli esami online a casa sua ed è stato anche promosso, quindi è diventato radioamatore, è in attesa di licenza di patente. Perché casino? 5 minuti è durata, la cedo io davanti. 5 minuti, 5 domande gli hanno fatto, ha dato 5 risposte secche, promosso, proprio 5 minuti online da casa tua, ed erano avanti ieri gli esami. Quindi sono molto molto ordinati, perfetti, tranquilli, non c'è nessun casino. Adesso saranno il prossimo anno sicuramente. Scusa, ma fammi capire una cosa, dove si va così a lezioni? Domanda. A lezioni ti devi iscrivere ad un'associazione, che sia tu sia Porto Torres e ti iscrivi all'Ari di Porto Torres e vai lì a seguire le lezioni. oppure non lo so, ma non è un problema di andare a seguire le lezioni, caro Mario, è un problema di quando dobbiamo dare gli esami a casa, non è che vai a scuola, quando ci sono c'è il diploma, no, ti prepari a casa, ti prepari il programma, ci avrai un programma da studiare, ci sono i libri, se vuoi i libri che mi prometti che studi, io te lo do, ma se per tenerlo dentro la scrivania, come è già successo altre volte che l'ho prestato e l'hanno tenuto anni dentro la scrivania, allora no. Se tu vuoi dare gli esami, io ti faccio avere i libri, studi e per il prossimo anno ti prepari e dai gli esami da casa tua, seduto a casa tua, davanti al computer, davanti a una webcam, c'è dal Ministero delle Telecomunicazioni di Roma, c'è un preposto che ti interroga e tu devi rispondere. Poi praticamente ti lasciano 5 minuti in linea e dicono attenda un attimino che si riunisce la commissione e le diamo l'esito, e ti danno immediatamente l'esito. Sono favolosi, sono velocissimi, molto meglio di quando l'ho dato io nel 1993, che sono rimasto 5 ore in classe come quando siamo andati per il diploma di scuola, a scuola, capite? 5 ore non ti potevi alzare. Ma il nominativo te lo danno loro? E allora chi te lo dà? Il Ministero delle Telecomunicazioni te lo dà. Adesso a Roberto gli arriva la patente, che è la prima cosa che mandano. Quando ti arriva la patente, in base alla patente fai richiesta di nominativo, assieme al nominativo ti arriva la licenza, sempre IS0, io sono IS0 DFB, lui sarà IS0 ullalà, cosa ne so, quello che le danno, se ho le tre sigle sono IS0, Italia Sardegna 0, che è la sigla della Sardegna. Tu sei IS0 33B? IS0 Delta Florida Bravo, devi fare bravo, DFB. DFB, IS0 DFB, ho capito. Quando entri nelle bande radioamatoriali ti presenti così, ciao, sono Claudio, devi chiedere il brecco, ti fanno entrare, da questa parte IS0 DFB, così è. Guarda, se tu già parli così è meglio che ti studi prima tutte le normative, non si fa brecco, non si dice da questa parte, ma ci sono altri tipi di tecnologia dialettale, che diciamo così, c'è un altro tipo di modo per parlare, quindi bisogna studiare anche tutte le normative, bisogna saper entrare, io non ho mai fatto break né niente, quando entri a far parte di un QSO schiacci la portante e dici il tuo nominativo, nello spazio utile che tutti debbono lasciare naturalmente, e ogni 3 minuti devi ripetere sempre il tuo nominativo, non è come qua, che ci conosciamo tutti per voce, lì devi entrare con nominativo, si segue una linea, ma comunque ci sono le normative, quindi nessuno è nato imparato, tutti abbiamo ancora tanto da imparare. Riprendo io un attimo.